La teoria delle stringhe è nata. È democratico perché. Per OGM si intende. L'effetto placebo. Da Baikonur. È rimasta quella di Darwin. La mia risposta è che non lo so. Caccia al fotone. Scienza e dintorni su Radio Città Fujiko. A cura di Fabio De Sicò. Sabato 14 marzo 2009 e benvenuti a un'altra puntata di Caccia al Fotone. Su internet www.cacciafotone.it. Per i contatti 333 180 94 94 per gli sms e cacciafotone@radiocittafujiko.it per le vostre mail. E oggi proveremo a parlare di teatro e scienza. In particolar modo parleremo di Copenaghen, un'opera teatrale scritta da Michael Frayn. E ne parleremo con Gianni Zanarini, professore di fisica a Bologna, ma soprattutto docente di scienza e letteratura al Master di Comunicazione Scientifica di Trieste. Buongiorno, dottor Zanarini. Buongiorno. Cerchiamo di spiegare che cos'è questa opera teatrale scritta da Michael Frayn. Sì, lo dico in poche parole, si tratta di un testo appunto del 1998, Michael Frayn è un commediografo e romanziere di successo, anche in Italia è conosciuto per esempio per Rumori fuori scena. E questo testo è un caso molto interessante di teatro ispirato alla scienza. Non solo, come poi avremo occasione di dire, che al suo interno vengono dibattute anche questioni di fisica e anche di filosofia della scienza, ma non solo, perché vengono messi in scena dei personaggi centrali della fisica del Novecento, ma anche perché la stessa struttura del testo si ispira a concetti scientifici. Il tema prende spunto da una domanda: che cosa è successo nel settembre del 1941, quando il fisico tedesco Werner Heisenberg si è recato a Copenaghen in visita a Niels Bohr, che era stato suo antico maestro, mentre la Danimarca era in piena occupazione nazista? Professor Zanarini, di questo e di molto altro parleremo nel proseguo della trasmissione. Adesso ci andiamo ad ascoltare un piccolo pezzo musicale, poi torniamo in studio e cominciamo davvero a parlare di Copenaghen. Bentornati a Caccia al Fotone. Quest'oggi stiamo parlando di Copenaghen, un'opera teatrale scritta da Michael Frayn. E allora andiamo a cominciare. Professor Zanarini, questo è il suono, l'originale suono dell'esplosione della prima bomba nucleare esplosa su Hiroshima il 6 agosto 1945. Cerchiamo di cominciare a parlare della storia, quando si è arrivati all'esplosione di questa bomba nucleare. Soprattutto la prima domanda che le voglio fare, sono tutti fisici che hanno collaborato per la stesura della teoria dei quanti. Come mai menti così brillanti che hanno dedicato la loro vita a studiare l'interno dell'atomo hanno poi dedicato parte della loro vita a sviluppare uno strumento di distruzione di massa così fenomenale? È una domanda difficile. Comunque direi e risponderei con una frase che venne detta da uno dei testimoni oculari della, non dell'esplosione su Hiroshima, ma del test che venne fatto negli Stati Uniti: la fisica ha conosciuto il peccato. Ecco, quindi questo è un po' il tema, ma anche nel corso di Copenaghen si accenna a questa questione: come mai? E certamente è stata da parte di tutti, anche di tutti i grandi fisici che hanno collaborato al progetto Manhattan, quindi parliamo di Oppenheimer, parliamo di Enrico Fermi, di Edward Teller, di Leo Szilard, tutti tranne Einstein, che si è, dopo essere stato in qualche modo l'iniziatore del progetto Manhattan con la sua famosa lettera al presidente Roosevelt, poi si tirò da parte, non partecipò al progetto. Ma c'era questo terrore che questa grande arma di distruzione di massa, la più potente arma mai costruita dall'uomo, venisse sviluppata dal potere nazista, e quindi questo terrore ovviamente c'era in America, ma c'era terribilmente forte in Gran Bretagna, che era molto più vicina a portata di aereo, diciamo, da parte della Germania. Quindi questo spinse i fisici, diciamo, a partecipare, per così dire, a un'azione difensiva. Questa era l'intenzione nei riguardi del potere nazista. La cosa poi risultò, come dire, amaramente grottesca, perché quando la bomba fu pronta i nazisti si erano già arresi, e dunque la bomba fu sganciata su un Giappone che probabilmente si sarebbe arreso anche senza la bomba. Quindi, diciamo, fu più a quel punto una dimostrazione di potenza superiore che non un fatto strategicamente fondamentale. Anche nella Germania nazista, lì la cosa era così, che gran parte dei più grandi scienziati se n'erano andati, erano emigrati in gran parte negli Stati Uniti, e quindi erano rimasti, sì, anche lì degli scienziati, Otto Hahn e anche altri scienziati, Gerlach e anche altri scienziati come Dibner, di cui oggi ormai il nome non ci dice niente, e soprattutto Heisenberg, che era diventato uno dei principali responsabili del progetto tedesco. E anche da parte loro, come mai una parte dei fisici era rimasta in Germania? Un esempio fra tutti, Max Planck, perché si pensava: ma poi il potere nazista finirà, la Germania tornerà quella di un tempo, e quindi dobbiamo preservare la Germania da una distruzione ad opera di questo. Quindi ognuno, presumibilmente ogni gruppo di fisici, aveva dentro di sé queste giustificazioni in qualche modo difensive più che offensive, anche se poi di fatto la bomba diventò uno strumento offensivo. Quali erano i problemi tecnici per la creazione della bomba atomica? Perché effettivamente, come ha detto lei, c'erano due grossi gruppi, un gruppo americano e un gruppo nazista, un gruppo tedesco. Diciamo che tedesco, il gruppo americano era grosso, c'era una sproporzione molto forte, e questa sproporzione in qualche modo è stata poi interpretata da alcuni, non è mai stato molto chiaro, ma come anche una riuscito sabotaggio da parte di Heisenberg stesso del progetto nazista. Comunque, quali erano i problemi? Beh, per spiegare questo bisogna andare un po' più indietro, diciamo diversi anni prima, il famoso gruppo di via Panisperna, capeggiato da Fermi, nel 1934, quindi un po' di anni prima, scopre, diciamo, che inviando neutroni, quelle particelle neutre che erano state scoperte nel 1932 da Chadwick, è possibile ottenere una emissione radioattiva secondaria e in qualche modo ottenere dei prodotti di reazione che non sono più gli atomi di partenza, specialmente se questo accade, diciamo così, sull'uranio. Ma Fermi crede di avere ottenuto degli atomi transuranici, poi Otto Hahn, di cui appunto poi accennavo prima, in Germania scopre che invece si sono ottenuti degli atomi di peso atomico minore e che quindi si è ottenuta una fissione nucleare e che l'energia per far questo è compatibile con l'esperimento fatto. Ora, siccome questa fissione produce elementi più leggeri ma anche dei neutroni veloci, energici, diciamo, e questi neutroni sono più di uno, allora subito viene in mente Enrico Fermi, che capisce spesso le cose prima degli altri, nel 39, che allora questo potrebbe permettere una reazione a catena, cioè una moltiplicazione con un'enorme produzione di energia, però soltanto un isotopo dell'uranio permette di far questo, è l'isotopo 235, che nell'uranio è presente in piccolissima quantità, è difficilissimo da separare e quindi si pone questo enorme problema della separazione dell'uranio 235 e di quanto ce ne vuole per fare la bomba atomica. Questo è un primo filone di lavoro che porterà alla bomba di Hiroshima. Poi invece c'è un secondo filone, cioè l'uranio 238 può a sua volta, attraverso una serie di processi, decadere in un altro atomo, che è il plutonio, e il plutonio si comporta un po' come l'uranio 235. Quindi è possibile realizzare una bomba al plutonio bombardando opportunamente atomi di uranio. E questa sarà la bomba di Nagasaki. Quindi le due bombe, le due linee, la seconda non è stata nemmeno sfiorata dai nazisti. Per la prima hanno fatto qualche cosa, cioè certamente hanno realizzato un reattore col quale forse si proponeva di ottenere plutonio, ma questo non è mai stato molto chiaro, mentre, come viene discusso anche all'interno di Copenaghen, sembra che Heisenberg avesse sbagliato la valutazione di quanto uranio 235 è necessario per una bomba, di qual è la cosiddetta massa critica, l'avesse sbagliata per eccesso e quindi avesse concluso che non si poteva fare, oppure ha finto di sbagliare per poter dire ai nazisti che non era possibile costruire la bomba, quindi per sabotare il programma. Queste ipotesi sono tutte presenti anche all'interno di Copenaghen. Professor Zanarini, visto che stiamo parlando di storia, le volevo fare l'ultima domanda. Quali sono state le reazioni post-bomba dei fisici che poi hanno partecipato alla creazione della bomba stessa? Quelli che hanno partecipato alla creazione della bomba americana, diciamo, ci sono stati due tipi di reazioni. La reazione di tipo Oppenheimer, che sosteneva che basta, cioè abbiamo fatto questa cosa terribile, adesso gli scienziati non devono più impegnarsi a costruire armi di distruzione. La posizione di Edward Teller era completamente opposta, e cioè era la posizione di sviluppare una nuova arma molto più potente, che è la bomba H, che poi fu sviluppata, e Oppenheimer addirittura venne processato in qualche modo perché non aderiva a questo programma. In realtà venne processato per sospetta collusione con i comunisti, ma insomma questa era, come dire, la copertura di un discorso che lui non voleva collaborare. Mentre per quanto riguarda gli scienziati tedeschi come Heisenberg, ci fu dopo un po' questa sorpresa amara che viene citata anche in Copenaghen, quando dopo la guerra si incontrò con gli scienziati che avevano sviluppato la bomba atomica negli Stati Uniti, questi si rifiutarono di stringergli la mano, a lui che in fondo la bomba non l'aveva fatta, no? Mentre loro l'avevano fatta. Comunque da quel momento certo tutto diventa più complicato, perché là era nata, come dire, a Los Alamos è nata non solo la big science, la scienza moderna fatta di migliaia di persone che lavorano insieme, ma anche la tecnoscienza, cioè quella scienza che è finalizzata a delle applicazioni che non necessariamente sono applicazioni pacifiche, possono essere applicazioni con dei risvolti molto problematici. Quindi è stata messa in evidenza questo problema dell'etica della scienza, insomma. Professor Zanarini, continueremo a parlare della bomba nucleare, ma soprattutto dello spettacolo teatrale di Michael Frayn nel proseguo della trasmissione. Adesso ci andiamo ad ascoltare un piccolo pezzo musicale, torniamo in studio e cominceremo davvero a parlare di Copenaghen. Sì. Nello spettacolo teatrale Copenaghen, Michael Frayn fa dire a Niels Bohr: perché tu sai quello che abbiamo fatto in quei 3 anni, vero Heisenberg? Senza esagerazioni abbiamo rivoluzionato il mondo, abbiamo riportato l'uomo al centro dell'universo. Professor Zanarini, sarà pur vero che hanno riportato l'uomo al centro dell'universo, ma hanno anche distrutto buona parte dell'umanità? Sì, beh, forse buona parte non in termini numerici, ma diciamo hanno contribuito alla distruzione dell'umanità. E quella frase va vista un po' nel suo contesto, nel senso che c'è un momento, questa citazione che lei fa viene dal secondo atto, in cui Bohr ricostruisce nel giro di poche frasi la, per così dire, la storia della scienza, insomma, da una scienza in cui l'uomo era visto come, dice Bohr, semplice strumento degli inconoscibili di Dio, a una scienza, quella diciamo ottocentesca, in cui l'uomo orgogliosamente costruisce queste cattedrali scientifiche, ma poi in qualche modo ne viene schiacciato in quanto cattedrali deterministiche. Ecco, quello che lui dice: abbiamo rivoluzionato, nel senso che abbiamo rimesso l'uomo in quanto la scienza si occupa degli elementi osservabili, secondo la interpretazione di Copenaghen della meccanica quantistica, e non, diciamo, per usare un parolone, dell'ontologia degli oggetti, cioè non si occupa di vedere cosa c'è dietro le osservazioni, ma la scienza quindi diventa un lavoro di interpretazione delle osservazioni sperimentali e non, come dire, una costruzione della verità del mondo, ecco, in questo senso. Ma questo è un aspetto molto particolare che viene sviluppato nell'ambito di Copenaghen, quasi come una rivendicazione orgogliosa di quello che si è fatto, da parte di Bohr, mentre il tema principale che viene dibattuto all'interno di questo testo teatrale appunto è il rapporto con il progetto atomico tedesco di Heisenberg, e poi anche viene accennato il rapporto col programma americano da parte di Bohr, perché Bohr nel 1943 attraverso la Svezia fugge in America e poi collabora sia pure marginalmente al progetto Manhattan. Oh, i personaggi di Copenaghen fondamentalmente sono tre: Margaret Bohr, che è la moglie di Niels Bohr, poi Niels Bohr stesso, e Werner Heisenberg. Heisenberg è famoso per il principio di indeterminazione, Niels Bohr probabilmente il papa della meccanica quantistica, come viene chiamata all'interno dello spettacolo, e Margaret Bohr colei che è più accanto a Niels Bohr, colei che sta proprio accanto durante il corso di tutta la vita. I due personaggi principali sono Niels Bohr e Werner Heisenberg. Cerchiamo di descrivere questi due personaggi nella loro interezza, perché quando vedremo il loro incontro che avvenne nel 1941 potremo forse capire come mai poi ci fu quella visione così discordante di come andarono veramente le cose. Sì, diciamo Niels Bohr è il maestro, come viene ricordato appunto anche nel testo, chiamato il papa della meccanica quantistica. Era il capo di un gruppo anche internazionale molto, molto produttivo e molto importante, che ha posto le basi, diciamo, della cosiddetta interpretazione di Copenaghen, ossia della visione probabilistica della meccanica quantistica, cioè in altre parole che ogni evento non è che la manifestazione, una particolare manifestazione di una più ampia distribuzione di probabilità. Per esempio, quando un elettrone arriva a una fenditura molto stretta, passando al di là della fenditura, arriverà su uno schermo. Se noi facciamo ripetere più volte questo esperimento, sullo schermo si disegna una figura di diffrazione che è esattamente quella che noi prevederemmo se fosse un'onda ad attraversare questa fenditura. Quindi da un lato nella meccanica quantistica c'è questa dualità dell'onda corpuscolo, c'è questa fascio di probabilità che poi, quando si effettua un esperimento, si collassa su un caso, su uno stato particolare. E da parte di Heisenberg c'è stato appunto la costruzione di quello che si chiama il principio di indeterminazione, che sancisce l'impossibilità di misurare contemporaneamente con precisione arbitraria due variabili coniugate come la posizione e la velocità di una particella elementare. E questo si può spiegare dicendo, perché la misura in qualche modo perturba l'osservazione. Quindi due grandi fisici, Heisenberg più matematico, Bohr in qualche modo più filosofico nelle sue riflessioni sulla meccanica quantistica, comunque due grandi personalità della fisica appunto del Novecento. Oh, lo spettacolo cerca di analizzare questo famoso incontro che avvenne effettivamente nel 1941 fra Heisenberg e Bohr, e le visioni, come abbiamo detto prima, sono fondamentalmente discordanti. Ci sono delle visioni che immaginano che Heisenberg va verso Bohr per chiedere la collaborazione di Bohr al programma nucleare tedesco, e all'interno di tutto lo spettacolo poi c'è una visione di colui che ha scritto l'opera. Ora cerchiamo di descrivere più o meno l'opera come strutturata. Ci sono due grossi tempi, una prima pièce teatrale, una seconda pièce teatrale, e poi una parte finale che è proprio l'interpretazione che descrivevo prima. Sì, dunque il testo è organizzato in un modo che si spiega facendo riferimento alla meccanica quantistica, cioè fra in parte dal fatto che appunto i documenti pubblicati, i ricordi di Heisenberg, i ricordi di Bohr divergono, nel senso che Heisenberg ricorda di avere in qualche modo soltanto posto la domanda etica al maestro, cioè è legittimo che uno scienziato si occupi di queste cose, e invece Bohr ritiene che lui gli abbia fatto capire che esisteva un programma nucleare tedesco e questo lo ha terrorizzato. E partendo da qui, Bohr e Heisenberg si incontrano nel testo teatrale di Freind non una sola volta, ma più volte. Perché? Perché Freind dice, così come la meccanica quantistica dice che ogni misura, ogni volta che l'elettrone attraversa la fenditura, si ha il collasso delle varie probabilità in un unico evento, ma per capire la situazione io devo fare molte misure, ecco che Freind fa questa ipotesi che diventa un'ipotesi strutturale del testo. Mettiamo in scena più volte questo incontro e dal fascio di questi eventi capiremo meglio che cosa è successo, fino poi ad arrivare, quindi questi incontri si concludono sempre con un fallimento dell'incontro stesso, con una rottura, con una interruzione dell'incontro, ma subito dopo viene detto, bene, tentiamo un'altra ipotesi, tentiamo un'altra possibilità, finché alla fine ci sarà una frase di Margrethe, la moglie di Bohr, che è un po' il testimone, un po' se vogliamo il coro greco di questa vicenda, anche se l'interpretazione di Giuliano Liodice è molto presente, non è solo testimone ma è anche un po' aggressiva nei riguardi di Heisenberg, accusatoria anche nei riguardi di Heisenberg. Lo tratta come un bambino viziato, insomma. Sì, questa è una lettura molto personale di Giuliano Liodice, che per esempio è molto diversa da quella che nel film che è uscito in DVD ne fa Francesca Annis, una grande attrice inglese, che invece ha una lettura molto più meditativa del personaggio, ma comunque certamente anche questa è un'interpretazione interessante. Allora, dicevo, c'è verso la fine una frase di Margrethe che dice: l'ultima e più importante gesto di amicizia per Heisenberg che Bohr abbia fatto fu lasciarlo nell'indeterminazione, cioè in qualche modo non far sviluppare il colloquio nella sua completezza, anche perché, come Freind ha avuto occasione di dire dopo, ha avuto moltissime occasioni di incontri, convegni stimolati da Copenaghen. Tra l'altro, faccio una piccola parentesi, anche Freind scrisse poi un post scriptum al testo e anche un post scriptum dove rielabora le sue idee a partire da questo incontro, e anche questi sono stati pubblicati insieme al testo del teatrale Copenaghen dall'editore Sironi, e proprio in questi giorni è uscita la seconda edizione di questa opera, che è un'opera da vedere a teatro ma anche da leggere dopo, perché è molto densa, molto molto intensa. E quindi ecco che Margrethe dice così perché, come dirà Freind a un certo punto, ma se il colloquio fosse andato avanti, se si fosse arrivati a parlare di fisica veramente, se quindi Bohr avesse fatto capire ad Heisenberg che lui aveva sbagliato la valutazione della quantità di uranio necessaria per fare la bomba, ecco che, siccome la quantità era minore di quella valutata da Heisenberg, probabilmente il programma nucleare tedesco avrebbe potuto avere qualche possibilità in più. Quindi, come dire, noi, dice a un certo punto Heisenberg, dunque alla fine del testo, alla fine, proprio alla fine dell'opera, testo, sì, dell'opera, alla fine dell'opera, si dice che forse è stato il fallimento di il nucleo finale di indeterminazione che sta nel cuore delle cose è stato salvato da quell'unico breve istante a Copenaghen, ecco, un po' in questo senso. Quindi, nonostante che il testo teatrale si sviluppi su diversi incontri, alla fine la conclusione è che forse la cosa migliore per tutta l'umanità è stato che quell'incontro sia fallito, che cioè non abbia portato a nulla, che i due probabilmente non siano riusciti a parlarsi. Però l'altro concludendo volevo parlare anche dell'ambientazione, un'ambientazione molto scura, quasi a corroborare il fatto che stavamo parlando veramente di argomenti molto drammatici. Il terreno è totalmente nero, ci sono delle linee bianche quasi come se fosse un pendolo, sul fondo ci sono delle blackboard, delle lavagne con delle formule di fisica teorica, e un'ambientazione molto suggestiva che richiama alla mente proprio quegli anni in cui effettivamente si è discusso di cose assolutamente tragiche e drammatiche che poi hanno rivoluzionato il corso della storia dell'uomo. Sì, certo. Non era un'ambientazione facile, perché fra l'altro il testo teatrale, come forse si è capito anche da quello che ci siamo detti, non rispetta l'unità di luogo e di tempo, nel senso che in effetti si passa da un dopo imprecisato in cui tutti sono morti a una riedizione dei colloqui, e quindi di nuovo al 1941, e tutto questo deve avvenire restando nella stessa scena, quindi è importante che la scena appunto non sia una scena troppo caratterizzata nel senso temporale o spaziale, deve essere una scena un po' astratta come quella che in effetti è stata costruita. La ringrazio per essere intervenuto, saluto gli ascoltatori di Radio Città Fujiko, saluto gli ascoltatori di Caccia Fotone, e come al solito vi do l'appuntamento a sabato prossimo, stessa ora, stesso fotone. Buona scienza a tutti, grazie ancora.